Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Dicevano che bella è la casetta in Canada. E buonasera, buonasera a tutte. La voce di Carla Boni, che avete appena ascoltato, che canta La casetta in Canada, vi dà il benvenuto alla 324esima puntata di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Una trasmissione a cura del CLR sugli 87.900 di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Stasera ai microfoni Rosina e in via eccezionale Nancy per il supporto tecnico e per la scelta del commento musicale, e che ringrazio. La casetta di cui vi parleremo stasera non si trova in Canada, ma in Francia, ed è stata fortemente voluta da una donna straordinaria che oggi ha 87 anni, che si chiama Thérèse Clerc, e che nella periferia di Parigi, ed esattamente a Montreuil, accoglie donne over 65 intenzionate a vivere insieme una vecchiaia attiva e ricca. E spulciando in rete abbiamo trovato informazioni e notizie su questa, oserei dire, straordinaria esperienza, e questa sera le condivideremo con voi, ma prima ascoltiamo un pezzo musicale. Qui purtroppo c'è stato un problema tecnico, avremmo voluto farvi ascoltare Giuni Russo in Morirò d'amore, ma magari se riusciamo a ripristinarla ve la faremo sentire più tardi. Intanto continuiamo con la nostra diretta. Il mio è un progetto nato per cambiare l'immagine della vecchiaia. Con queste parole nel 2014 Thérèse Clerc, madre di quattro figli, femminista e lesbica, piena di energia e sensualità, ha presentato a Roma un incontro organizzato alla Casa delle Donne dalla rivista femminista di WWF, La Maison de Baba Yaga, in italiano La Casa delle Streghe. Si tratta di una casa che la Clerc ha fondato a Montreuil, nella periferia parigina, per ospitare donne over 65 intenzionate a vivere insieme una terza età attiva e aperta alla collettività. La nostra è una casa aperta in cui le donne continuano a lavorare per la comunità, con la comunità del quartiere dove vivono molti immigrati, ha spiegato Clerc. Di qui l'idea della giovinezza. Clerc, che ha fondato la casa in cui una ventina di donne vivono in piccoli appartamenti autonomi dentro ad una struttura con molti spazi comuni e pagando una quota mensile, ha spiegato come è riuscita a mettere in piedi un progetto tanto innovativo e ha lanciato un appello per la creazione di case simili anche in Italia. La Maison de Baba Yaga è nata dopo una lotta di 10 anni, ha spiegato Clerc, che nel febbraio del 2013 ha inaugurato la casa, che è costata 4 milioni di euro, ottenuti per una metà dal comune di Montreuil e da altre istituzioni pubbliche, per l'altra metà attraverso un mutuo della banca che eroga prestiti per servizi pubblici, la Caisse des Impôts et Consignations, spero di averlo pronunciato bene. Clerc ha spiegato che l'evento decisivo per il lancio del progetto della Casa delle Streghe è stata l'estate del 2003, quando la Francia è stata attraversata da una ondata di caldo che ha provocato la morte di 15.000 anziani. Più o meno quello che è successo in Italia quando c'è stata l'ultima grande ondata di calore, quando i nostri politici, Monti in testa, consigliavano, invitavano le persone anziane a recarsi presso i centri commerciali per poter usufruire dell'aria condizionata per fare fronte alle ondate di caldo torrido. Effettivamente non è proprio la risposta che si poteva aspettare, o forse è proprio la risposta che ci si poteva aspettare dalle nostre istituzioni. Comunque, tornando alla casa delle streghe francese, quando è accaduto questo tragico evento, la morte di tutte queste persone, Le Monde ha pubblicato un articolo sul progetto di Clerc, e quell'articolo ha praticamente funzionato da traino per le istituzioni. L'iniziativa di questa attivista francese, di Madame Clerc, è basata sulla sua esperienza personale. Lei ha detto: quando ho assistito per 5 anni mia madre fino alla fine della sua vita, è stata molto dura. Avevo 4 figli che si sposavano, soffrivano e divorziavano. Così mi sono detta che avrei fatto in modo che loro non dovessero vivere la stessa esperienza. Questo tempo di passaggio parla di un deserto da attraversare, fa l'elogio dei castelli in aria ed è qualcosa che mi fa sperare e che mi dà coraggio. In questo tempo diviso, tempo ripiegato, tempo di fiori recisi, di cuori sezionati, questo tempo di passaggio. Non esiste giorno che non cerchi il mare, mare aperto dove regna la deriva, perché è qualcosa che mi fa sperare, è qualcosa che mi fa sperare e che mi dà un motivo. In questo tempo perduto, Ed era Acustimantico con Tempo di passaggio, e riprendiamo la nostra diretta. Allora, l'attivismo sociale, oltre al pagamento della quota, è un elemento fondamentale per l'accesso alla Maison de Baba Yaga, perché è considerato fondamentale per invecchiare bene. Le femministe invecchiano meglio, per il senso dato alla loro vita, cosa che garantisce una migliore salute mentale, così dice Madame Clerc. I principi su cui si fonda la convivenza nella Maison sono l'autogestione, la solidarietà, la cittadinanza, il femminismo e l'ecologia. Autogestione perché la casa è governata da un consiglio di amministrazione eletto dagli abitanti. La solidarietà e la cittadinanza perché è una casa aperta al quartiere dove si organizzano corsi di lingua e altre attività con i giovani e gli immigrati. L'ecologia perché è stata progettata per riutilizzare l'acqua piovana, ad esempio, recuperare l'energia attraverso i pannelli solari, mentre la spesa viene ordinata dai contadini del territorio. La casa ha anche aperto una università popolare nella quale vengono promosse l'attività intellettuale rivolta a tutti e improntata soprattutto allo studio della questione femminile, e quindi qui entra il discorso del femminismo. Molte donne che vivono nella casa vengono da contesti poveri, non hanno ricevuto una istruzione, non hanno mai lavorato, hanno trascorso la vita a crescere i figli, spesso numerosi, perché erano tempi in cui non c'erano i cosiddetti dispositivi per il controllo delle nascite. Quindi si parla di famiglia, di figli, e nella maggior parte delle volte queste parole significano donna. È la donna che cura i figli e gli anziani, e deve essere una scelta e non un obbligo sociale. Questo è il pensiero di Madame Clerc. La Maison è appunto un progetto sociale, ma è anche da considerarsi nell'ottica della silver economy, perché non si può dimenticare che nel 2050 più della metà della popolazione sarà costituita da persone over 60. Le donne poi per troppo tempo sono state considerate inutili una volta finita l'età fertile. Quindi bisogna sradicare lo sguardo discriminatorio che ha la società verso la donna e considerare la vecchiaia in genere è ancora considerata come una patologia. Ma dice Clerc, abbiamo il diritto di vivere una terza età intelligente, perché una volta che si è liberi da figli, lavoro, casa e famiglia, l'anzianità è a tutti gli effetti la stagione della libertà. Il ricamare e guardare la televisione non è di certo il modo migliore di viverla. Ed era Antonella Ruggero con Controvento, stasera una selezione di musica italiana, grazie a Nancy che ce la propone. E naturalmente vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Potete ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. E inoltre vi ricordiamo anche la nostra email se voleste contattarci, ed è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web www.clrbp.it. Proseguiamo con la Maison de Baba Yaga, è un nome difficile. Allora, l'esistenza di questa casa che unisce utopia e innovazione sociale dimostra come sia ancora giusto, appunto, credere nell'utopia. Ma a cosa si ispira questo nome? La Baba Yaga è una figura femminile tratta dalla cultura e dalla mitologia slava, che vive nella foresta e appare in numerosi racconti russi, bulgari, polacchi, a metà fra strega e fata, un po' come si sentono le donne che portano avanti questo progetto innovativo che sta alla base dell'esperienza. E il progetto, lo ripetiamo, si ispira ai principi dell'invecchiamento attivo, che sviluppa in termini di tempo del possibile, valido per tutte e tutti, anche a 85 o 90 anni, a condizione di sentirsi attrici delle proprie scelte di vita durante l'invecchiamento e cittadine attive nella società. La Maison de Baba Yaga, secondo l'idea di Thérèse Clerc, si propone come casa di riposo per donne sole e senza risorse, che hanno deciso di non invecchiare in solitudine ed inoperose, ma invece impegnandosi attivamente, sposando la causa femminista, perché ritengono che la vecchiaia non è un naufragio, perché morire da vecchi è un bene, ma invecchiare bene è meglio. Chi potrebbe dire il contrario? La Maison de Baba Yaga è un luogo di vita in cui le abitanti, oltre all'autogestione in piena libertà e autonomia della casa, si dedicano appunto ad attività diverse con un orientamento laico ed ecologico in coerenza con l'attivismo sociale di cittadine consapevoli e solidali. Da questo punto di vista, quindi, la Maison de Baba Yaga è sia un'esperienza di innovazione sociale, come intende la fondatrice, ma anche un vero e proprio progetto politico e un luogo di condivisione di esperienze e di ricerca sull'invecchiamento attivo. La casa si è anche dotata di un manifesto, la Char de Vie de la Maison de Baba Yaga, che è stata votata dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'associazione da loro fondata, che ne dichiara le condizioni, i valori, le modalità di autogestione solidali del progetto di vita quotidiana condiviso dalle abitanti. Le donne che decidono di vivere nella Maison accettano la Char de Vie e si impegnano a rispettarla e condividerla con il resto delle coabitanti. La Maison de Baba Yaga si trova in un isolato del centro città di Montreuil, che è un quartiere centrale e commerciale, e si tratta di un edificio costituito da due volumi, uno di 6 piani e l'altro di 4, che sono collegati da un terzo corpo riservato alla circolazione ai locali tecnici. Tutte le stanze, i locali comuni, gli spazi collettivi sono orientati in maniera tale da consentire la massima esposizione alla luce naturale. Al piano terra ci sono gli spazi comuni, che sono anche aperti alla cittadinanza, dove si svolgono appunto le funzioni collettive. La struttura si compone di singoli appartamenti che misurano circa 40 metri quadrati, alcuni dei quali sono riservati a giovani donne di età inferiore ai 30 anni che intendono avviarsi verso un nuovo percorso di condivisione intergenerazionale. E l'edificio, l'abbiamo già detto, è stato concepito seguendo principi ecologici e di risparmio energetico, al fine anche di alleggerire il canone di locazione. E tutta la struttura e gli appartamenti sono stati concepiti per essere completamente accessibili a tutte e di conseguenza anche a persone con una ridotta autonomia o con una disabilità di tipo motorio, visivo, sensoriale. E gli arredi sono scelti dalle abitanti e quindi sono personalizzati, e tutta la struttura è funzionale alle loro diverse esigenze e si presta anche a successivi adattamenti in funzione dell'evoluzione dei bisogni reali di ogni residente, perché si sa che, insomma, arrivate ad una certa età le nostre esigenze cambiano per forza di cose. Il costo di questi appartamenti è di circa 350 euro, 400 euro al mese, e le abitanti si impegnano a svolgere un numero di ore della settimana in attività civiche, di servizio sociale, soprattutto a favore della loro causa. E la struttura ospita anche donne che non sono in grado di pagare l'affitto, e quindi a queste donne vengono concesse delle riduzioni, a patto però che condividano i principi e l'impegno civico che sta alla base del progetto, e quindi impegnandosi nel sociale attivamente per la questione femminista. Ed era la voce di Alice, il titolo della canzone è Anina Gri, andiamo a Grilli. Dunque riprendiamo con il nostro racconto della esperienza di Thérèse Clerc, e della sua casa delle streghe. Su questa esperienza, su questo progetto, su questo lavoro di Thérèse Clerc e sulla sua persona, è stato girato anche un documentario, il cui titolo è Rebelle Menopause, la menopausa ribelle. L'autrice del documentario è Adele Tulli, che si è occupata anche di altri diversi lavori sugli studi di genere e sulla cultura queer. Questo documentario, Rebel Monopause, è stato presentato in vari festival, ad esempio al Créteil Film The Femme, al Goldsmith Screen Doc di Londra e in Italia al Sam Prefer Cake. Di questo documentario è stato scritto: è un inno alla libertà che non conosce frontiere, tantomeno quelle dell'età. Il documentario Rebel Menopause di Adele Tulli. Thérèse Clerc, la più nota femminista di Montreuil, classe 1927, già tra le figure del toccante Les Invisibles di Sébastien Lifshitz, che riunisce le storie degli omosessuali a viso aperto del Novecento, racconta la sua vecchiaia e risale alla scoperta della libertà avvenuta per lei a 46 anni. Sposata a 20 e divorziata a 40, Thérèse Clerc entra nel mondo del lavoro e realizza che le piacciono le donne. La menopausa coincide con la presa di coscienza che la biologia non è un destino, come diceva Simone de Beauvoir nel 1949, e che il destino, le donne, possono farselo da sé. Un piglio inalterato anima Thérèse oggi, che ha 87 anni. Dopo aver fondato la Casa delle Donne a Montreuil, la vediamo impegnata a mettere su la Maison de Baba Yaga. La vita è deliziosa, dice, il piacere da vecchia continua e la morte è l'ignoto, e non è detto che non sia affascinante. E la voce di questa donna mi stringe il cuore, questa volta ce l'abbiamo fatta, era, l'avrete riconosciuta naturalmente, Giuni Russo in Morirò d'amore. Dunque torniamo al progetto della Maison de Baba Yaga. Al momento in diversi paesi si stanno progettando nuove maison, oltre che in Francia anche in Canada, in Germania, e Thérèse Clerc, appunto presentando questo suo progetto presso la Casa Internazionale delle Donne, ha riportato nel nostro paese questa idea. Però vogliamo comunque sottolineare che non dobbiamo dimenticare che le compagne dell'associazione Desiderande di Bari avevano progettato anni fa una idea simile quando la loro attività era in pieno fermento. Le abbiamo contattate, ma purtroppo questa sera non hanno potuto partecipare a questa trasmissione. Però vi vogliamo lo stesso leggere il lancio, diciamo, del progetto, dell'idea e la chiamata alla condivisione di questo progetto, che si chiamava appunto Progetto dell'Esbizio, e che appunto le compagne avevano avevano messo in rete nella speranza che si potesse concretizzare. Ve lo leggiamo così com'è. Il progetto dell'Esbizio. Siamo partite dal desiderio di costruirci una vecchiaia a nostra misura. Per fare questo abbiamo pensato di progettare il nostro lesbizio personale, cioè il posto fisico che racchiuderà le nostre esistenze in modo da lasciarlo a quelle che ci seguiranno. A loro spetterà il compito di conservarlo. Questo posto sarà situato nei pressi di Bari, nel verde e all'aria aperta. Ci saranno dei piccoli appartamenti o stanze personali e degli spazi in comune. Ci saranno solo lesbiche e ci lavoreranno solo lesbiche. In questo posto ci saranno gli archivi delle Desiderande, perché la sede dell'associazione, che continuerà a lavorare per offrire spazi separatisti alla comunità lesbica e rimanere un luogo di scambio. Pensiamo ad una ricettività per circa 20 lesbiche. Il lesbizio garantisce alle inquiline i servizi di mensa, pulizia, assistenza infermieristica, segretariato. Questi servizi potrebbero essere estesi anche a lesbiche anziane che non vivono all'interno del lesbizio ma che ne hanno bisogno. Con questo si potrebbe dare lavoro ad una decina di lesbiche disoccupate, nonché soddisfare le esigenze di lesbiche anziane che vogliano continuare a vivere nella propria casa in città. Alcune di noi pensano oltre. Il lesbizio solo come una delle tante parti di un intero villaggio di lesbiche, o una strada o un quartiere, comunque vissuto da lesbiche. Noi pensiamo di cominciare. Attualmente siamo impegnati nella ricerca e nello studio di un modello giuridico, economico, organizzativo che ci permetta di procedere concretamente nella realizzazione del progetto. Pensiamo fra l'altro di organizzare entro il prossimo anno un incontro in cui contiamo di invitare lesbiche, italiane e non, che abbiano già realizzato iniziative analoghe o che siano interessate a discutere ed eventualmente condividere questa idea. Chiediamo fin da ora alle lesbiche di aiutarci a raccogliere informazioni per la realizzazione di progetti di questo tipo, ma anche di inviarci suggerimenti ed esperienze. Purtroppo la storia ci racconta come finì la corsa, volendo citare una bellissima canzone di Guccini, e il progetto delle Desiderande purtroppo non è andato in porto, almeno per ora. Però questo progetto ci racconta come un'utopia, un'altra utopia, un'altra speranza sia possibile. E magari, chissà, l'esperienza francese di Madame Clerc potrà aiutare a sbloccare le cose. Noi consideriamo il progetto dell'esbizio una pietra miliare nel cammino delle lesbiche, anche se poi effettivamente non si è realizzato. Resta appunto un'idea straordinaria, una possibilità altra alla quale tutte noi magari potremo accedere quando sarà il momento, per noi abbastanza vicino ovviamente. Dunque, a questo punto abbiamo terminato con la lettura di questo progetto di Madame Clerc. Lo ricordiamo, la Maison de Baba Yaga a Montreuil, nella periferia di Parigi. E nell'attesa, nella speranza che questo progetto, un progetto analogo, si possa realizzare anche nel nostro paese, credo che Nancy ci farà sentire un altro pezzo musicale, e prima di salutarci e di mandare la sigla finale. Thank you. dubitare che l'errore in fondo ci sia stato mai. E fatto il mondo ti avrà perso un paio d'ore. Pavoneggiarsi e bere insieme a tutti quanti gli altri dei. La donna è donna, questo vi ho sentito dire. E giuro che il significato io non l'ho capito mai. Perché se partorisco allora so soffrire. È come dire che chi nasce ha un bel talento nel morire. Giorno dopo giorno lascio il mondo solo. Che Dio avrà bevuto troppo, forse poco, chi lo sa. Un singolare femminile, un tesoro. L'errore in sé che si rivela sotto forma di realtà. E non mi dire, devi capire. Io che ho voluto troppo bene, non devo capire più. Che siamo al mondo per farci del male. E allora soffri fino a quando il cuore non. Ecco, qui sulle note di Marina Rei, l'errore, abbiamo terminato la nostra trasmissione e vi diamo appuntamento per la prossima calamità fra 15 giorni, ma non senza avervi ricordato invece che martedì prossimo proseguirà la lettura della difesa di Sciora, di quelle due che in realtà non siamo altro che queste due, infatti. E vi vorrei anche invitare a partecipare al flash mob che si terrà a Piazza Indipendenza giovedì alle 18:30 contro i femminicidi, che appunto sapete soprattutto in questi ultimi due giorni sono aumentati in maniera esponenziale. Chissà se arriveremo all'esbizio, non credo, perché ci ammazzeranno prima, ma speriamo di no. E dunque, a questo punto io ringrazio Nancy per la sua preziosa collaborazione e ringrazio voi per l'ascolto, e il CLR vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima calamità. Buonasera. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.